Il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: se una donna è stata fecondata e partorisce un maschio, è impura per 7 giorni, come al tempo delle sue regole. L'ottavo giorno si circoncida la carne del membro del bambino, ed ella continuerà a purificarsi dal sangue per 33 giorni. Non toccherà alcunché di sacro, e non andrà al santuario fino a che siano compiuti i giorni della sua purificazione. Se ha partorito una femmina, è impura per 2 settimane, come nel tempo delle sue regole, e per 66 giorni resterà a purificarsi dal sangue. Quando saranno compiuti i giorni della sua purificazione, sia che si tratti di un figlio o di una figlia, porti un agnello per l'olocausto e un colombo o una tortora per il sacrificio espiatorio al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno. Egli offra ciò alla presenza del Signore e faccia per lei il sacrificio espiatorio, ed ella sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge per la donna che partorisce un maschio o una femmina. Se non ha mezzi sufficienti per offrire un ovino, prenda 2 tortore o 2 colombi, uno per l'olocausto e uno per il sacrificio espiatorio. Il sacerdote faccia per lei il sacrificio espiatorio ed ella sarà purificata.